insulti, faccio parlare i muri, faccio muovere i culi, tu i muli, te li inculi. Tu parli di rap, ma rap è meglio che lo studi. Tu dici che studi, ma le barre non le chiudi. Questa va a chi è senza contratto, a chi cerca lavoro e sta diventando matto, alle case popolari tra lo spaccio e lo scratto. Tocchi mi famiglia, mi alzo e scatto. C'ho le 90 chili, chili chili, più di 90 stili, stili stili. Tu a 90 gridi, gridi gridi, cazzo ridi te la tiri in ginocchio a Rakiri. Napoli, Milano, faccio rap in contromano, sono Ciolo chi, l'ultimo moicano. Tu sei rapper P, fra dammi una mano, perché parli di strade e canti come Scanu. Trap make, fuck fake, remake, frappe, ego trip, lady strip, è una hit, rhyme shake. My gang, my party, my bitch sucker, you're ready in my room, twerk, twerk. Tu dici che, tu dici che, tu sai fare rap, rap, rap meglio di me. Fai roba fresh, il papi ti dà il cash, la scena è troppo uomo, emo, fresh. Barre a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek. Che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider. Barre a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek. Che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider. Tra Sant'Antonio, sicuro che roba ti spacca, come un uragano nasce da casa de vasta. Sto sfunando e rintorrepo, tu accuso l'impatto, mentre aspetto turno tuoi, fumo da sto blunt, che tan, ma sento rap a tan, cresciuto con speaker censo e tonica si tant, madame, festa festine cantante, spongo stessa, pure se non tengono contrat, ogni barra è un pugno mocco, ogni femmina che senta, posso un von, che sta balla tre punte, non so le bronne, sganga me, sembra più attivo che sta campagna che son, che yeah, sai, sai che spongo in da live e non sono bravo in un freestyle, ma d'allegria quando faccio hype, può competere contro me, aspetta poi lo riparlamo, non puoi essere me, perché all'Italia lo sta. Fondamentalmente tengo il rimo il gioco sento, mentre un coppo beat tu si lenda, slang giù massiccio, mega preta, un coppa scena, vega sul mio gioco c'è merda, non puoi essere me, fra, viene tinta me, ma mamma dice che cazzo te siente, Anna Re, tu non capisci proprio niente, frate a me, ti ho steso, ho fatto strike, non mi dici il risci, beviti una sprite. Fare a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek, che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider. Barre a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek, che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider. Trova verità nel mezzo, pensa a correre le fast, invece di fermarti indietro come sti pischelli al trap. Si basa tutto sulla ritmica che ormai va a farsi fottere, la metrica scompare, il flow resta soltanto polvere. Mi basso sulla scena di sti rapper del 14, hanno mutato il rap come una persona a Chernobyl, prova a lasciare un segno diverso come a Colorbill, e avanzano i più scarsi come se c'hanno i pronostici. Strozzi ostici, dimmi chi, se non capiscono il messaggio può andare peggio di così. Ma tanto il rap è andato, non esistono le intese, mai visto qualche MC alla sagra del paese. Musicalmente parlando restate poveracci, ma sti vi strappa le uga ne vi impicca con i lacci. Pure se c'ho quattro stracci pesanti come massi, io li indosso da una vita, se li indossi non ti alzi. Sono sirozeri antidoti, parlano e non fanno brutto, i loro soci fra li sfrutto, il loro rap è solo rutto. Non ho contenuti, partono già dal riassunto, scrivono le pagine, io ora di dargli un punto. Yo, adesso che problemi c'hai, tu pensa alla Rakiri ma non a fare il samurai. C'hai 30 anni e fai freestyle, vendi rime sopra i pai. Non è mai confuso un cazzo, amico sei outside. Barre a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek. Che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider. Barre a ripetizioni, freddi come iceberg, Napoli, Milano, dallo spazio Star Trek. Che ne sai te, grossi come geyser, questa ruota prende fuoco, mica Ghost Rider.